A bordo campo di Dario Ricci. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. Beh, ci perdonerà Claudio Baglioni se oggi a bordo campo scherziamo un po' con la sua Piccolo Grande Amore, un capolavoro che d'amore e di magliette parla e che è proprio il tema di cui vogliamo parlare oggi qui a bordo campo. Amore, che è quello per il calcio impersonificato proprio dalle magliette delle nostre squadre. Mi è capitato quest'estate di avere la fortuna di vedere dal vivo un derby di Rio de Janeiro, Flamengo-Fluminense, il famoso Fla-Flu. Ebbene, intorno al Maracanã mi ero dato come obiettivo quello di comprarmi una maglietta rigorosamente falsa, magari del Flamengo. Pensate, intorno al Maracanã il giorno della partita non c'era una bancarella con magliette false delle due squadre, sorprendente rispetto a quello che invece accade ogni domenica, ogni sabato che si rispetti nel nostro campionato. Ne parliamo oggi con l'onorevole Filippo Fossati del PD Toscano, uomo di sport. Benvenuto a bordo campo, onorevole. Benvenuti a voi e agli ascoltatori. Beh, onorevole, sorprendente quello che mi è capitato di sperimentare in Brasile. Il giorno del Fla-Flu al Maracanã, niente magliette false intorno allo stadio. Io sono rimasto a bocca aperta. Beh sì, perché uno immagina che l'economia informale sia più potente in Brasile che non in Italia, poi scopriamo che invece questo non è, siamo degli informali per natura. Ecco sì, mettiamola così, perché l'abbiamo convocata oggi qui a bordo campo? Perché lei è relatore di una proposta di legge che vuole contrastare proprio il fenomeno del marketing sportivo illegale, del merchandising sportivo illegale soprattutto, che è una piaga un po' del nostro sport e soprattutto del nostro calcio, visto quanto questa voce va a incidere nei bilanci dei club stranieri. No? Noi nonostante abbiamo ormai valutato da tempo l'importanza dell'economia del calcio, che è un settore come tutto lo sport, che poi è responsabile del 2% del prodotto interno lordo, insomma, quindi non è pochissimo nell'economia del paese, non riusciamo a tutelare tutte quelle attività che possono fare consolidare e rafforzare questa attività economica, a partire dal merchandising e comunque dall'utilizzo a scopo promozionale, pubblicitario, di valorizzazione commerciale di prodotti, che i colori sociali, i trofei sociali, gli eventi sociali, sociali nel senso delle società sportive, possono produrre. Ecco, noi non tuteliamo tutto questo e quindi lasciamo questi ambiti, questi asset, questi strumenti appunto nell'informalità. È un danno per le aziende che invece vorrebbero investire in calcio. Ecco, nel presentare la sua proposta, la vostra proposta, avete in qualche modo avrete quantificato questo danno? Che numeri avete tra le mani? Ma guarda, la quantificazione è difficile, ma se noi facciamo il conto su altri paesi europei in cui le attività collaterali alla bigliettazione e ai diritti televisivi nei bilanci societari arrivano fino al 20-25%, diamo l'idea di che cosa stiamo parlando, insomma sono centinaia di milioni, ecco, nel mondo sportivo italiano. Disposizioni per la tutela dei segni distintivi delle società sportive, enti e federazioni e per la disciplina della loro utilizzazione commerciale e delle sponsorizzazioni sportive. Questa è esattamente la dicitura della proposta di legge da lei presentata. Dicevamo, fenomeno quasi connaturato, no? Con le abitudini degli italiani. C'è quasi bisogno di una ricerca antropologica, no? Perché se si va in Germania o in Inghilterra, il tifoso è fidelizzato col prodotto originale, anzi ne fa quasi un vanto, per non dire della Spagna. Perché secondo lei in Italia invece quasi godiamo a comprarci la maglietta finta? Beh, insomma, la maglietta finta costa meno, diciamo. Ma così. pure all'estero. Ma è difficile trovarla, no? Primo, perché innanzitutto si tutela il marchio, cioè il marchio sportivo, i colori sociali, gli eventi e i trofei sono registrabili. Ecco, c'è una protezione commerciale, questo è il primo punto. Questo dà degli strumenti ovviamente alla società stessa e poi alle polizie fiscali di intervenire, no, quando ci sono degli abusi. Poi c'è, e questo è l'altro aspetto che io non curo nella legge, ma è importantissimo, l'aspetto che faceva riferimento lei, la possibilità e l'abitudine di coinvolgere la tifoseria non soltanto nei patti scellerati per la gestione dell'ordine pubblico dentro le curve, che questo è un dramma, diciamo, invece, ma nella gestione societaria. Il Barcellona, no? che è l'esempio, vabbè, che fanno tutti, ma è davvero impressionante come attraverso l'azionariato popolare, attraverso le attività sociali, attraverso le attività di promozione, come una città si stringa in modo attivo attorno alla squadra, non solo quando gioca, ma anche nella quotidianità, diciamo. Certo, quindi, c'è una fedeltà che poi diventa anche legame nel momento in cui si compra quella maglietta, magari a 70-80 euro, si dà quasi un contributo a un progetto comune. Si dà un contributo al proprio investimento, passionale, emotivo, ma è un investimento poi anche economico se siamo coproprietari della squadra. Entriamo nel merito della sua proposta, onorevole Fossati. Quali sono i punti cardine, quali gli strumenti che si potrebbero mettere a punto per limitare quantomeno questo fenomeno? Ma intanto la registrazione dei marchi. Dei marchi intendo, come ho detto già più volte, non soltanto il marchio societario, ma anche i colori, gli eventi prodotti dalla squadra, i trofei. Noi dobbiamo registrare la storia sportiva e l'immagine del sodalizio sportivo. Questo è il primo punto. Il secondo punto collegato a questo è che in questo modo noi riusciamo a colpire anche l'ambush marketing, cioè il trattamento indiretto dei colori sociali della storia sportiva, perché non c'è spesso non si usa in pubblicità, per esempio, lo stemma ufficiale, perché sarebbe comunque pesante oggetto di contenzioso, ma si usa qualcuno che corre in maglia giallorossa. E se qualcuno corre in maglia giallorossa capisce che non è, no, direttamente un reato, diciamo, no? Non è possibile identificarlo come una scorrettezza, e invece va identificata come una scorrettezza. Maglia giallorossa è nell'immaginario e nella poi realtà e poi nell'intenzione di chi lancia il messaggio, vuol dire parlare della Roma, diciamo, no? Della Roma, della sua storia, del suo significato in termini di accompagnamento piacevole del consumo di un prodotto. Quindi dobbiamo andare a scavare, diciamo, fino alla fraudolenza indiretta. E poi ci sono però anche sanzioni dirette, no? Per chi invece vende proprio la maglietta finta col marchio tecnico finto e con magari con lo scudettino anche finto. Questo naturalmente diventa il giorno che abbiamo fissato la protezione del marchio, diventa un reato commerciale come la falsificazione degli altri prodotti, insomma, di qualsiasi altro prodotto commerciale. Senta, quelli dell'altra parte, quelli del PDL, insomma, diciamo, voi che adesso siete tutti un po' presi da larghe intese, più o meno traballanti, come l'hanno presa questa proposta e è scattata un'alleanza trasversale? Guardi, io credo che questa sia una proposta che ha qualche chance di avere una grandissima maggioranza, perché è una proposta di buon senso. Vedo un punto che io spero sia ben accolto, che poi l'altro punto importante dell'articolato, che tratta sempre di marchio, ma affronta il tema di cosa succede in caso di fallimento della società sportiva o di difficoltà economica forte della società sportiva. La legge sostiene che in quel momento il marchio della squadra, naturalmente se si sta parlando di una società che ha una storia sportiva importante, no? Diciamo 50 anni per esempio nel testo di legge, ma poi si può discutere quali sono i requisiti di questa importanza sportiva, è un marchio che è della comunità, diciamo così. Non è un marchio che può sparire dallo sport portato via dal fallimento della società. E quindi la legge suggerisce di rendere il marchio alla federazione sportiva di appartenenza, che lo può quindi poi riassegnare alla società sportiva che è in grado di sostituirsi nel campionato, nell'attività alla società fallita. Insomma, il marchio non muore con il fallimento della squadra, ma è torna dallo sport, viene allo sport, torna, perché lo sport lo possa poi riaffidare e rifar nascere. Come lei sa, il padrone del titolo sportivo è la federazione sportiva. Allora, onorevole Filippo Fossati, direi che la carne al fuoco è tanta, la proposta di legge è ricca e la possibilità di trovare un accordo bipartisan, o diciamo così, di larghe intese, Intese sportive, diciamo così, è sicuramente fattibile. Allora, intanto grazie per essere stato il nostro ospite oggi a Bordo Campo, buon lavoro e buon campionato, onorevole. Grazie a voi e complimenti. A Bordo Campo. Verso la nascita di una procura europea contro le combine, contro il gioco d'azzardo, contro le scommesse illegali. È questo il percorso che il Parlamento europeo ha avviato lo scorso 23 ottobre a Strasburgo, con un voto importante e significativo che forse diventerà un po' una pietra miliare nella lotta appunto delle istituzioni comunitarie contro questi fenomeni. Proprio di questo oggi vogliamo parlare a Bordo Campo con quello che di fatto è stato il relatore di questa proposta di legge di cui ora andremo a parlare. Benvenuto a Bordo Campo a Radio 24 all'onorevole Salvatore Iacolino. Sì, buongiorno. Buongiorno onorevole. Allora, siamo freschi di questo voto di Strasburgo su questa proposta di legge contro il gioco d'azzardo, le scommesse illegali che entrano ancora di più nel mirino dell'Unione Europea, e non che molto lavoro, come abbiamo testimoniato proprio anche qui a Bordo Campo e a Radio 24, non sia già stato fatto. Ecco, ci aiuti a capire innanzitutto il voto di Strasburgo, quali principi ha sancito, cosa avete deliberato in Parlamento? Sì, nella buona sostanza il Parlamento europeo ha approvato la relazione sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio, che prevede sanzioni efficaci e dissuasive anche nei confronti di coloro i quali portano avanti attività illecite, quali quelle legate alle cosiddette partite truccate, al match fixing. Le scommesse illegali sono fra le priorità nel contrasto al crimine transnazionale. Il provvedimento apre a quella procura europea, nella quale sono anch'io rapporteur, che avrà come compito il coordinamento delle procure degli Stati membri, una condivisione di informazioni e il contrasto a tutte quelle attività che costituiscono un possibile impoverimento del bilancio europeo. E in seconda battuta si occuperà anche del cosiddetto crimine transnazionale, ivi comprese le scommesse legali. Quindi un passo avanti deciso e consapevole del Parlamento europeo nel contrasto ai sistemi criminali, compresi quelli che riguardano il mondo delle competizioni sportive. Ecco, quindi onorevole, per capire bene, in questo ambito le scommesse clandestine, il gioco d'azzardo, il match fixing illegale appunto, sono una costola di un apparato più ampio, di un contesto più ampio, no? Però costola importante, e che dà seguito questa vostra ratifica a un percorso che già le istituzioni europee hanno avviato, e non da ieri, no? Beh, è proprio così, la questione del match fixing, una questione sulla quale ci siamo occupati, della quale ci siamo occupati anche nel passato. Io sono peraltro il primo firmatario di un progetto pilota approvato dall'Unione Europea proprio a riguardo di nuovi meccanismi di cooperazione e di integrazione tra pubblico e privato per identificare il rischio e scommesse sportive che ci sono in Europa, ma delle holding presenti in moltissimi paesi terzi. L'obiettivo è creare prevenzione, informazione e collaborazione perché le indagini possono raggiungere l'obiettivo auspicato. È chiaro che l'integrità dello sport deve vincere sulla corruzione nello sport. Ecco, avete più volte ricevuto in questi mesi la visita del presidente dell'UEFA, Michel Platini, che ha fatto di questa battaglia uno dei punti cardini, insieme alla battaglia contro il razzismo, della sua presidenza. Ecco, da questo punto di vista, ratificato questo voto e aperta la strada alla Procura europea, di cui fra poco parleremo, quali possono essere però gli ulteriori punti di collegamento, collaborazione con le istituzioni calcistiche europee da parte di Strasburgo e Bruxelles? Ma intanto raccogliere e analizzare le informazioni provenienti da fonti qualificate. Abbiamo bisogno di comprendere meglio i meccanismi con i quali operano gli scommettitori illegali, che sono presenti in tutti gli Stati membri, ma in alcuni Stati membri la soglia di attenzione probabilmente è più bassa. Abbiamo previsto per questo, nella relazione sul crimine organizzato di cui sono rapporteur responsabile, anche la previsione da parte degli Stati membri del reato di manipolazione sportiva. Noi riteniamo che il contrasto alle partite truccate possa avvenire soltanto se c'è una straordinaria cooperazione fra pubblico e privato, fra enti, federazioni. UEFA e FIFA possono svolgere un ruolo importante, così come possono svolgere un ruolo importante anche le federazioni nazionali. Ecco, non è che però a Singapore e da quelle parti si stanno facendo magari una bella risata, visto che comunque... Non lo escludo. Questa affermazione, diciamo, per alcuni aspetti preoccupante, ma adesso entriamo proprio nel merito, nel senso che chiaramente sappiamo che sono quelli i mercati di riferimento e da lì partono i tentacoli di questa piovra dalle mille teste, nel senso che come questo voto e le strutture che state mettendo in piedi andranno a lavorare laggiù per evitare che quelle decisioni, quelle reti mafiose, definiamole anche per quello che sono, condizionino i risultati sportivi qui da noi in Europa? Beh, non possiamo escludere, la mia era una battuta, ma era una battuta che tiene conto di quello che è accaduto. Si sa che molte agenzie, come dire, illegali, se così vogliamo definirle, hanno sede proprio in Singapore e in altre realtà. Abbiamo bisogno di combattere anche il riciclaggio di denaro sporco. Molte scommesse illegali si alimentano proprio di fonti di guadagno assolutamente illecito. C'è un gioco d'azzardo che va anch'esso, come dire, severamente contrastato. C'è l'esigenza di azioni concrete. Quali possono essere le azioni concrete? Intanto una cooperazione giudiziaria e polizia basata sulla fiducia fra gli Stati membri, meccanismi di informazione e di prevenzione che possano muoversi in maniera agile e snella. E poi c'è bisogno di sviluppare anche le personalità da parte dei giovani in crescita, ai quali bisogna dare modelli di riferimento che non sono quelli ai quali purtroppo ultimamente sono stati abituati. Su queste cose bisogna agire tutti quanti insieme, perché i sistemi criminali si alimentano delle tante difficoltà dei sistemi di controllo e di prevenzione dei vari Stati membri. Senta, mi ha fatto venire in mente una domanda, ma dopo Prego. Tutto questo lavoro, che impressione le fanno tutti questi calciatori che, per carità, in maniera legale e rispetto ad aziende legali, sponsorizzano il gioco online, le scommesse online, oppure a volte vedere sponsor altrettanto legati al mondo delle scommesse ben stampigliati sulle maglie più celebri al mondo? Ma sa, io intanto vorrei distinguere fra gioco legale, consapevole, gioco responsabile, dalle dipendenze patologiche, rispetto invece all'accostamento da parte di calciatori talentuosi e che hanno peraltro lauti compensi a queste aziende. È chiaro che è evidente che c'è qualche momento di, come dire, non dico di apprensione, ma di cautela. Io ritengo che, e l'abbiamo scritto, che i calciatori, per esempio, che giocano sulle partite, sulle loro campionate, debbono essere radiati, perché l'integrità dello sport si misura anche dalla capacità degli atleti di rispettare regole comunemente accettate, che sono quelle della leale competizione, di una partita leale nella quale deve prevalere il migliore. Prossimo obiettivo la Procura europea, ma a livello invece di legislazione comune, a che punto siamo? Cioè, diversi stati membri, tanti stati membri, ma ci sono gli strumenti comuni e sicuramente quello del 23 ottobre è un passo avanti, ma cosa si può fare ancora di più? Ma si deve fare molto di più. Veda, lo sport è entrato nel Parlamento europeo come materia appunto di competenza parlamentare soltanto al 1° dicembre del 2009, quindi dobbiamo lavorare molto in questa direzione. La Corte di Giustizia più volte ha sancito di contro che gli Stati membri possono fissare liberamente i principi ispiratori dei loro comportamenti sulla base del principio di proporzionalità, detto altrimenti ogni Stato membro ha proprie regole. Quello che noi possiamo fare dal Parlamento europeo è provare ad armonizzare le legislazioni vigenti, ed è quello che abbiamo fatto anche nella relazione CRIM e che faremo ancora meglio quando la Procura europea sarà a regime. Ecco, siamo arrivati al prossimo passo, 4 dicembre a Bruxelles, presentazione del progetto di Procura europea. Quali sono i punti fondamentali, quali strumenti operativi avrà questa Procura? Beh, la Procura europea è prevista dal Trattato di Lisbona, nella buona sostanza svolgerà un ruolo di coordinamento fra le varie procure nazionali, ci sarà un procuratore, dei vice procuratori, dei delegati per ciascun Stato membro, avrà il compito di dare impulso alle investigazioni per garantire in fase di prima applicazione che il bilancio dell'Unione europea, il bilancio dei cittadini possa essere utilizzato per il welfare, per lo sport sano e pulito, per l'offerta formativa, per la cultura, per il lavoro. In un secondo momento avrà come compito quello che lei poc'anzi annunciava, cioè quello di contrastare il crimine transnazionale, ivi compreso quello legato alle scommesse illegali. È una partita molto complicata, abbiamo fatto una conferenza stampa con la Reding, che è il commissario di giustizia in Europa. Siamo pronti per lavorare in questa direzione e confidiamo che sotto presidenza italiana questo importante dossier legislativo potrà finalmente essere definito. Onorevole Salvatore Iacolino, direi che la partita è tutta da giocare e da vincere ed è quello che ci auguriamo, insomma, che l'Unione Europea lo faccia anche per nostro conto, presupponendo il nostro impegno. Quello che ci fa molto piacere è che l'Europa sia scesa in modo così deciso in campo. È vero, proprio così. C'è un salto di qualità nell'approccio europeo a quelle che sono le politiche di sviluppo e di crescita della persona, ma le politiche dello sport. Noi siamo per una competizione leale, sana, pulita e sotto questa direzione stiamo svolgendo tutte le attività necessarie con un ritrovato o rinnovato impulso. La volontà del Parlamento europeo di arrivare ad una sorta di definizione di regole comuni nelle quali verrà privilegiato certamente la competizione leale, dove fra i due contendenti vincerà il migliore. È quello che ci auguriamo. Intanto grazie a Salvatore Iacolino per essere stato oggi il nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Per Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci attraverso il nostro sito web www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento è come sempre per domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora un saluto da Dario Ricci.